Piazza 24, i gialli della storia. Un po' prima di metà settembre, mi sembra, vengono annunciati i 14.000 licenziamenti. Ecco, fu questa la questione che fece scendere anche le lotte nelle forme che poi assunsero, perché era una roba di una gravità eccezionale. E l'11 settembre dell'80 la Fiat annuncia un piano di ristrutturazione che prevede tra l'altro 14.000 licenziamenti. Comincia così un braccio di ferro lungo 35 giorni, con operai che scioperano e bloccano i cancelli della fabbrica. Una trattativa durissima tra governo, Fiat e sindacati. Poi il colpo di scena. Il 14 ottobre dell'80, 40.000 tra impiegati e quadri della Fiat scendono in piazza per dire stop a scioperi e picchetti. Per il sindacato è una sconfitta clamorosa. Per la Fiat una grande vittoria. Oggi a Mix 24 raccontiamo quel momento e come quel momento abbia cambiato per sempre i rapporti tra il sindacato e l'industria in Italia. Ma questa storia comincia nel maggio di quello stesso anno, quando i vertici della Fiat annunciano la cassa integrazione per 8 giorni per 78.000 dipendenti. I sindacati chiedono l'apertura di una trattativa, ma la Fiat si mostra subito molto intransigente, come racconta il segretario dell'FLM, Raffaele Morese. La Fiat ha cercato lo showdown. Voleva spiegare al paese, all'opinione pubblica, che la gravità della crisi era tale da non consentire pannicelli caldi. Non serve a nulla neanche la mediazione del governo, guidato da Francesco Cossiga. In quel periodo i rapporti tra i sindacati, i lavoratori e la Fiat sono tesi e deteriorati da anni di scontri durissimi, come ricorda Carlo Caglieri, che era il capo del personale della Fiat. Era clima orrendo, posso definirlo soltanto così. Diciamo, i capi e le strutture di comando e di controllo erano molto, molto esitanti a prendere qualsiasi posizione nei confronti di chiunque. Dal 74 ai vertici della Fiat c'è Cesare Romiti, un uomo infaticabile, autoritario, che quando arriva a Torino trova una situazione difficilissima. Io sono molto, molto, molto più cattivo dell'avvocato Agnelli. E questo è il suo peggior difetto? No. E nelle fabbriche trova terreno fertile anche il terrorismo. Piero Fassino. Quelli erano anni nei quali noi sentimmo la responsabilità di guidare una reazione democratica, a difesa delle istituzioni, della democrazia, dello Stato, della libertà, contro le organizzazioni terroristiche, pagando anche con i nostri compagni sul campo. Ricordo l'assassinio di Guido Rossa. E la Fiat paga un prezzo altissimo. Il 24 novembre del 77 i brigatisti rossi uccidono Carlo Casalegno, vice direttore della Stampa, il quotidiano di Casagnelli. 2 anni dopo, il 21 settembre del 79, Prima Linea colpisce a morte un dirigente Fiat, Carlo Ghiglieno. E poi ci sono gli agguati, i 16 capi reparto feriti, i sequestri lampo, le intimidazioni continue. Ancora Carlo Caglieri. Giravo armato, mi allenavo a sparare, tutte quante robe che servivano, come dire, a esorcizzare il rischio. Dopo l'omicidio Ghiglieno, la Fiat decide di reagire. Il 9 ottobre del 79 l'azienda procede al licenziamento di 61 operai. L'addebito è indisciplina e comportamenti scorretti, ma in realtà i 61 vengono allontanati perché ritenuti terroristi. È solo il primo round dello scontro, la battaglia appena all'inizio. L'amministratore delegato della Fiat, Umberto Agnelli, lancia un segnale chiarissimo. E sabato 21 giugno 1980, in un'intervista a Repubblica, Umberto Agnelli annuncia l'assoluta esigenza di operare tagli al personale. Per tutta risposta, i metalmeccanici proclamano uno sciopero generale. Il 1 luglio a Torino parla il leader della CGIL, Luciano Lama. La Fiat deve capire che contro questo suo disegno trova schierato non soltanto la maestranza delle sue fabbriche, ma tutto il mondo del lavoro. Per tutto il mese l'azienda e i sindacati cercano di ricomporre un quadro complicatissimo, ma senza successo. Poi il 31 luglio un colpo di scena. Umberto Agnelli si dimette da amministratore delegato, il suo posto viene preso da Cesare Romiti, come ricorda lo stesso Romiti. Fucuccia, come rappresentante del sistema bancario, che andò a trovare l'avvocato Agnelli e gli disse che oramai la Fiat o si metteva su un percorso che evidentemente non poteva non portarla allo scontro, oppure il sistema bancario avrebbe dovuto rivedere le cose. Per gli osservatori più attenti, le dimissioni di Umberto Agnelli sono un segnale chiarissimo. La Fiat va alla guerra. E Cesare Romiti è il generale che dovrà andare a una battaglia senza esclusione di colpi. L'azienda infatti annuncia il licenziamento di 14.000 operai. La risposta degli operai è durissima. Ce lo ricorda uno di loro, Tommaso De Fazio. Un po' prima di metà settembre, mi sembra, vengono annunciati i 14.000 licenziamenti. Ecco. Fu questa la questione che fece scendere anche le lotte nelle forme che poi assunsero, perché era una roba di una gravità eccezionale. Giovedì 11 settembre dell'80, i sindacati insorgono, gli operai incrociano le braccia, paralizzando la produzione. I cancelli delle fabbriche sono presidiati, nessuno può entrare. Tra gli operai, accanto alla rabbia, c'è la disperazione, il timore di perdere tutto, come ricorda Michele Nieto, un operaio della Fiat. Toccavi con mano la realtà di chi era in quel cancello lì e che ti raccontava qual era la sua vita, i problemi che si presentavano, perché magari ti trovavi il padre di famiglia che aveva 3-4 figli a carico, era solo lui che lavorava, lui era presente lì, ma era drammatico il modo come ti raccontava per poter andare avanti. Mother, do you think they'll like this song? Intanto a Roma il governo cerca una mediazione. Il ministro del lavoro Foschi avanza una proposta che prevede la revoca dei licenziamenti e la cassa integrazione a rotazione per gli operai. I sindacati sono d'accordo, ma la Fiat no. Sentiamo il sindacalista Raffaele Morese e Cesare Romiti. Ministro Foschi fu molto attento e generoso nei confronti delle nostre esigenze, ma la posizione della Fiat fu durissima nei suoi confronti. La Fiat pubblicamente lo chiamò il foglietto Foschi, l'ipotesi di mediazione. In quei momenti bisognava far capire al sindacato che noi eravamo determinati, decisi ad andare fino in fondo. E andare fino in fondo per la Fiat significa una cosa sola: continuare sulla strada dei licenziamenti. La risposta del sindacato allora diventa immediata. Il 25 settembre viene proclamato uno sciopero generale e il giorno successivo ai cancelli di Mirafiori arriva Enrico Berlinguer, ma la sua presenza scatena polemiche molto aspre. Sentiamo come Piero Fassino ricostruisce quell'episodio. Compagni, c'è una domanda che un'operaia vuol porre al segretario generale. Un delegato, Norcia della CISL, dice: voglio dire una cosa, in queste situazioni non gli si dice, non si dice a uno no, tu stai zitto, cioè, abbiamo dire una cosa, mi dai il microfono. Compagno Berlinguer, oggi ci troviamo di fronte a questa intransigenza del padrone ad affrontare lotte dure come anche quella dell'occupazione. E questo delegato disse, ma se noi occupiamo la Fiat, cosa fa il PC? Queste forme di lotta dovranno essere discusse e decise dai lavoratori stessi nelle loro assemblee. E in questo senso potete esserne certi, vi sarà l'impegno politico, organizzativo e anche di idee e di esperienza del Partito Comunista. Cerca di essere il più prudente possibile, perché dice, guardate, dovete stare uniti e dovete decidere insieme al sindacato, sapendo Berlinguer che il sindacato non deciderà mai l'occupazione. E poi dice quello che deve dire, che non poteva non dire il segretario del più grande partito di sinistra operaio italiano ai lavoratori in lotta, noi siamo con voi, che cosa doveva dire? No, noi stiamo da un'altra parte. Le parole di Berlinguer scatenano una bufera. Tutte le forze moderate accusano il PC di istigare gli operai a un'azione illegale. Beh, fu pessimo. L'appoggio di Berlinguer, che tra l'altro ho saputo poi, fu provocato da una serie di battute di un delegato sindacale. Ecco, il fatto che Berlinguer ci sia cascato, poi abbia cercato di prendere un po' le distanze da quello che aveva detto, non è stata una buona cosa per noi. Là, l'ufficio stampa della Fiat ci ha lavorato un bel po'. Si innescò immediatamente un'operazione, come capita spesso, mediatica, e cioè un lancio di agenzia, Berlinguer dice sì all'occupazione, cosa che non aveva detto, e è bastata questa roba qui per incendiare le polveri. Da un lato c'è la necessità di ridisegnare un'azienda in crisi, anche attraverso dei licenziamenti, dall'altro il tentativo di salvare il proprio posto di lavoro a qualsiasi costo. Quando Berlinguer alla domanda di un operaio risponde «Noi siamo con voi», questo viene interpretato come un invito all'occupazione. E allora gli animi si accendono ancora di più e tra l'azienda e gli operai è sempre di più muro contro muro. Poi il colpo di scena, il 27 ottobre dell'80. Buonasera, il governo Cossiga si dimette dopo che la Camera ha bocciato a scrutinio segreto per un voto il super decreto economico. La Fiat sospende i licenziamenti fino alla fine dell'anno. I sindacati revocano lo sciopero generale che era stato proclamato per il 2 ottobre. La Fiat cambia posizione, cancella i licenziamenti ma annuncia 24.000 provvedimenti di cassa integrazione a zero ore, come ricorda Carlo Caglieri. Quando Cossiga si è dimesso abbiamo potuto fare la mossa che avevamo pensato di fare in circostanze che si fossero determinate, e quella è stata la circostanza che ha giustificato il far la mossa. Ho capito che avremmo fatto filotto, che da lì in poi la strada andava tutta a nostro favore. Cassa integrazione a zero ore significa che 24.000 operai resteranno a casa. I sindacati, per attenuare l'effetto di una decisione così esplosiva, chiedono alla Fiat un provvedimento a rotazione, ma la Fiat rifiuta e quando invia ai 24.000 dipendenti la comunicazione del provvedimento ne rende noti i nomi, come ricorda Carlo Caglieri. Quando si sono ritirati i licenziamenti, si è passati alla cassa integrazione. Essendo la misura del tutto blanda, non andava anche applicata, quindi bisogna comunicarla alle persone. La mossa della Fiat spiazza tutti, ma soprattutto per la prima volta dopo 5 mesi incrina il fronte sindacale. D'improvviso anche il sostegno dell'opinione pubblica comincia a vacillare. Ma il fatto nuovo è la crescente insofferenza dei colletti bianchi. Gli impiegati della Fiat sono senza stipendio dopo un mese di uno sciopero che non hanno né voluto né condiviso. Il 13 ottobre i quadri dell'azienda annunciano una loro iniziativa. Domani i capi intermedi dell'azienda torinese, sono in totale circa 18.000, si riuniscono in un teatro di Torino. Pensavamo di radunare 1.500-2.000 persone, quelli che potevano essere contenuti in questo cinema. Consideriamo quella un'iniziativa che non avrebbe avuto esito più di tanto. Cioè, al Teatro Nuovo si sarebbero riuniti alcune centinaia di quadri e avrebbero detto la loro, ma... Per la stampa e l'opinione pubblica l'iniziativa dei capi è poco più di un passaggio di routine. I vertici Fiat invece sanno che proprio dai quadri può arrivare un segnale importante, decisivo. Anche Gianni Agnelli vuole capire cosa sta accadendo e così telefona al capo del personale della Fiat, Carlo Caglieri. In particolare mi telefonò il lunedì precedente la marcia. Mi ha chiesto ma che cosa pensavo che sarebbe successo, quanta gente sarebbe andata in piazza, e gli dissi: guardi avvocato, sarà tanta gente. Ma quanta? Ha detto: guarda, tanta che lei non immagina. Era un bluff, se vuole, perché non avevo certezza. Quelli che erano dentro decisero: usciamo, usciamo e andiamo dal prefetto. Man mano che questi 2000 o giù di lì uscendo dalla fabbrica camminavano, si unì un sacco di gente. Si unirono quelli che magari non hanno grandissimo coraggio di mettersi in mostra, ma in quell'occasione il coraggio venne e si unirono. Per le strade di Torino si riversano migliaia di persone, una massa foltissima di colletti bianchi che marciano compatti verso la prefettura per chiedere il ripristino dell'ordine pubblico. La magistratura, dicono, deve rimuovere i picchetti anche con la forza per consentire a chiunque lo voglia di recarsi al lavoro. E mentre le strade di Torino sono invase dalla protesta dei quadri intermedi, a Roma il governo è di nuovo al lavoro per tentare l'ennesima mediazione. I sindacati hanno proposto la cassa integrazione a rotazione e pensano a quel punto di essere vicini all'intesa. Ma quei 40.000 in marcia a Torino fanno saltare ogni ipotesi di accordo. Sentiamo il ricordo del segretario generale della UIL, Giorgio Benvenuto. Ci vedemmo per firmare. Mentre stavamo facendo questo accordo, c'era un meeting che era lì e ogni tanto entrava qualcuno che gli portava. Allora le agenzie erano i tech dell'ANSA. Man mano che questi tech arrivavano, era che i quadri erano usciti, che erano in corteo, che erano 10.000, 20.000, 40.000. A quel punto Lomiti ci disse: mi dispiace, l'accordo non si può fare più. Un magistrato di Torino ha emesso una ordinanza in base alla quale tutti gli operai che vogliono rientrare in fabbrica, tutti i dipendenti, devono poterlo fare. Accogliendo la richiesta dei quadri, la magistratura è pronta a rimuovere con la forza i picchetti. In realtà però i sindacati di fronte a una manifestazione del genere hanno già deciso di accettare le condizioni imposte dalla Fiat. Ecco il racconto di Cesare Romero. Il più combattivo era sempre Lama, il quale mi venne incontro e mi disse: dottor Romero, allora noi domani andiamo a Torino, presentiamo i risultati della chiusura dell'avvertenza. La prego, scriva lei il verbale di chiusura. No, dico, perché devo scriverlo io? Lo scriviamo insieme, lo vediamo insieme. No, dice, questa è la sconfitta. Per i sindacati non c'era altra soluzione. Bisogna arrendersi e accettare le condizioni dettate dalla Fiat. Questo è il giudizio di Fausto Bertinotti. Fu un'operazione militare, organizzata e riuscita. Il ricatto dell'azienda aveva pesato moltissimo. L'idea che si potesse perdere tutto, soprattutto sugli strati più moderati della popolazione lavorativa, quelle più vicine alle gerarchie, quelle più indifese, aveva fatto premio, e la marcia dei 40.000 segnava appunto la nostra sconfitta. L'accordo viene firmato con la Fiat, seppure con una maggioranza risicata, ma la marcia dei 40.000 lascerà un segno profondo sugli equilibri tra aziende, sindacati e Partito Comunista. Così Cesare Romiti ricorda quel clima e in particolare il suo rapporto con Enrico Berlinguer. L'episodio più, diciamo, più difficile per la mia vita, che io ricordo sempre con una certa preoccupazione, fu che quando la marcia dei 40.000 ebbe luogo, ci fu a Firenze un convegno in cui venne a parlare Berlinguer, un convegno dove c'erano gli industriali, e parlò Berlinguer cercando di accattivarsi gli industriali, nel senso di dire dovete credere a noi. Ma in quel momento io ebbi una grande preoccupazione, io parlavo subito dopo di lui. La preoccupazione è che facesse breccia sugli industriali, sugli imprenditori che gremivano fino all'eccesso quella sala, e dissi non gli credete. Questo è l'uomo che è venuto ai cancelli di Mirafiori, quello che vi sta dicendo questa mattina non corrisponde alla realtà. Io oggi ve lo dico in termini chiari, ma quei tempi là ero, innanzitutto ero più giovane, poi ero focoso come lo sono sempre stato in tutta la mia vita, e lo dissi in termini molto vibranti. Vedevo davanti a me, seduto in prima fila, Berlinguer, pallido come era sempre, che mi guardava, chiudeva gli occhi e capivo che soffriva. E quando io finii di parlare nella mia violenza assoluta, gli passai vicino e gli toccai la mano, e forse in quel momento capii che avevo sbagliato. Avevo sbagliato non nel fatto che non ero convinto di quello che dicevo, ma mi ero sbagliato perché l'uomo che meritava di meno questi attacchi forse era Berlinguer, perché era veramente un uomo corretto, onesto, competente, che in quel mondo, allora c'era veramente quella talmente grande corruzione, si distingueva da tutti gli altri. Molte emozioni diverse si nascondono dietro questa storia. Sentiamo quelle di Fausto Bertinotti, Giorgio Benvenuto e Piero Fassini. È una battaglia difficilissima, che molti di noi dall'inizio pensavano che sarebbe stata una battaglia persa, ma che era una battaglia che andava condotta per condividere fino in fondo questa straordinaria storia di dignità dei lavoratori e delle lavoratrici della Fiat. È un grande rimpianto, perché è la disperazione di quei lavoratori che si videro in cassa integrazione Guadagni, e perché sapevano che non sarebbero più rientrati in Fiat. A me quella vicenda che ho vissuto in prima persona, quella responsabilità che avevo, ha insegnato una cosa molto importante che non mi sono più dimenticato, a cui cerco di ispirare ogni giorno la mia attività politica, che di fronte alla realtà la cosa peggiore che si può fare è nascondersela o raccontarsela diversa da quella che è.